E ci sembrò dell'epoca là un po' un sociaforum oggi. In quanto a coraggio ce ne voleva, non crede che si fosse tutti coraggiosi. Soltanto si dovette scegliere fra scegliere la parte dell'avversario. Ragazzi come noi, se aveva 20 anni, saremmo conosciuti la libertà perché ci avevano torto. E quando decidessero di andare in montagna e sconfiggere i fascisti, la si sarebbe riacquistata, si diventò leoni a chiedere al peore. E si scese la strada. Siamo in Illumina, questi ciattroni vengono a dirci, insomma si potrebbe anche vedere di riconoscere a noi dei meriti qua lei. Lì si trattava o di stare da parte degli occupanti, come un metodo di avere la violenza, l'intolleranza, la prepotenza, e se vinceva loro stasera i buon buccelli. Radio Bomba. This is Radio Bomba. Eccoci qua. Eccoci. Ci sentite? Ci sentite? Ci sentite? Sì che ci sentite. Qualcuno. Questa è una coppia nuova per Polveri. E intanto buonasera, buonasera, buonasera a tutti e tutte. Lo sentite? È Denver, voce nota su Radio Wombat. Prestato da In Punta di Pedali. Sì, è un po' prestato di cartellino. Un po' prestato da In Punta di Pedali, è proprio così. Questo è la verità. Ma chissà perché, incroci strani del destino. Probabilmente. Ma io sono impreparato. Come ti porra. Senti in questo tuo ruolo in Fuoco del Polvere? Cerco la miccia, dov'è? Voglio il fuoco, la miccia voglio la vuoi il... sentire? La vuoi sentire? Intanto facciamo così. Per sentire la miccia, hai presente chi abbiamo ascoltato ora in apertura? Era lui. Il grande Sarti. Il grande Sarti che ci ha lasciato lo scorso puntata mese. È un po' triste. Beh, da questo punto di vista. C'è stata una grande commemorazione. E la miccia, te la faccio sentire subito la miccia, vai. Il Consiglio Comunale ha votato un criterio che prevede un modulo con delle dichiarazioni. La notizia è che Casa Pound ha dichiarato di essere antifascista. Noi controlleremo se negli atti sarà conseguente alle dichiarazioni. Hai capito, però, caro Denver? Però le risate registrate se te. Hai capito, caro Denver? Il modulo eccola qua. Il modulo è praticamente il modulo, no? Quindi il modulo viene firmato da Casa Pound che dice di essere antifascista. Hai capito praticamente che succede? Cioè lui che ieri l'altro ha fatto tutta la grande commemorazione a Pillo, il partigiano Silvano Sarti. Però qualche mese fa aveva fatto questa uscita fantastica. Direi che questa può essere la miccia per la nostra nuova puntata. Voglia, anche perché ci grande Nardella. Pillo si sarebbe svegliato. No, ma Pillo vabbè, chissà che cazzo ha pensato. Chissà che cazzo avrebbe pensato al suo funerale, fra l'altro, con tutti quei signorotti imbellettati in doppio petto. Purtroppo. I tempi cambiano. Sì, i tempi cambiano e quando muori, purtroppo diventi strumento politico, no? Sì. In modo molto infame in questo caso. Senti, caro Denver, ma te lo sai, hai idea di che cosa si facciano noi a Fuoco alle Polveri? Si fanno i moduli, no? Sì. Cioè, intanto si fa in ritardo di solito, oggi. Quello sono bravo anch'io, guarda, anche in punta di pedale ci sappiamo fare. Da palinsesto si doveva partire alle 5, invece questo non è successo, però intanto ricordiamo un po' di cose. La mail, vai Denver. Ah, aspetta, la mail di Fuoco alle Polveri? O del Wombat? No, del Wombat. Le polveri non ce l'ha. Del Wombat. Del Wombat. Wombat at insiberia.org. Ok, posta Wombat @insiberia.net. Secondo me, fra l'altro. Ma ora l'apriamo. Facciamo così. Appena controlliamo. Sì, controlliamo. Posta Wombat. Allora, posta Wombat, naturalmente 13:59. Ci potete scrivere, ci dovete scrivere. Non ci scrivete mai, forse un po' fate bene. Anche perché noi siamo sempre in ritardo. Sì, siamo sempre in ritardo. Anche le mail saranno in ritardo. Difficilmente le leggiamo. Promettiamo che ci impegneremo di più. E detto questo, sai di cosa parliamo oggi? no, no, perché giustamente te sei arrivato qui così, sì, sei caduto dal cielo un po', esatto, sei un po' caduto dal si pero. Si è aperta una botola. Si è aperta una botola, è caduto dentro. Ero a casa e improvvisamente sono qui. È vero, perché i compagni di Fuoco alle Polveri non ci sono oggi, in quanto, chissà, sono, alcuni sono lontanissimi, c'è chi è in India, c'è chi è malato, c'è chi è al lavoro, cioè, quindi è veramente una debacle. E ci sono qua io e poi è arrivato giusto in tempo Denever. Ti dico di cosa parliamo. Fondamentalmente avevamo tre argomenti, di cui uno l'abbiamo perso visto il ritardo. Ma ve lo racconto io, l'intenzione era di far venire in regia i compagni e le compagne dei No Borders, che ieri presso la polveriera Spazio Comune hanno organizzato una bellissima festa con tanti ragazzi dai CAS, dai centri, comunque tanti ragazzi africani, e c'è stato veramente delle sessioni di ballo bellissime, c'è stato musica, sia musica tradizionale africana, un sacco di djembe, ma poi anche roba più moderna, rap e trap e via discorrendo. Veramente una serata piacevole, una giornata via piacevole, perché il tutto si è svolto dall'ora di pranzo circa fino all'ora di cena, perché come ben saprai il decreto Salvini poi impone la chiusura dei, il rientro dei, nei centri, centri entro le 8, e quindi naturalmente si è svolto tutto durante la giornata. È stato molto bello, una bellissima atmosfera. E i ragazzi dei No Borders erano venuti qui per rilanciare l'appuntamento del l'appuntamento di sabato, se non mi sbaglio, che è il 2. Ora vi trovo anche il comunicato, così, così ce lo leggiamo insieme. L'evento poi lo potrete trovare anche nella rassegna eventi che oggi noi andremo a fare. Però intanto ve lo anticipiamo anche su Fuoco alle Polveri. Appena il computer mi apre Word, Writer, anzi, ti dico che vi stavo accennando appunto all'evento, sì, di sabato 2, di sabato 2 alle ore 18, alle ore 16 presso Piazza Indipendenza. Un appuntamento piuttosto importante. Perché? Lo sai perché? No, impreparato. Allora, il 2 febbraio? Allora, ripeto, sabato 2 febbraio alle ore 16 in Piazza dell'Indipendenza. Perché? Perché in concomitanza con l'entrata in vigore del DL Salvini, che attacca duramente una fascia di persone per la loro condizione di immigrati, con misure come lo smantellamento dei sistema SPRAR e la cancellazione dei visti umanitari, un altro provvedimento di matrice fascistoide che è stato introdotto a Firenze, il rientro obbligatorio entro le 20 e il controllo della corrispondenza per tutti i residenti in strutture di accoglienza. Esattamente, il controllo della corrispondenza, perché sai, è facile che insomma, la corrispondenza di questi ragazzi, di queste ragazze contenga qualcosa di pericoloso per noi. Certo. Sì, è proprio così. 2 lire mandate ai genitori, magari. Sì, no, ma roba veramente che non si può distribuire così liberamente tra le persone. E quindi alle ore 16 questo sabato in Piazza Indipendenza ci sarà un presidio. Piazza Indipendenza, beh, è una piazza che veramente ha una storia, si può dire, anche recente, visto tutte le cose che sta attraversando. È praticamente presidiata H24 dalle volanti alla ricerca del traffico di stupefacenti. Fanno retate, fanno controlli e proprio questo, diciamo, questo luogo appunto è un po' un luogo simbolo di questo disagio che la città vive. Come ti posso dire, per introdurti a ciò che ascolteremo tra poco, potrei dire che quando parliamo di migranti fondamentalmente parliamo degli ultimi, delle persone tra le più disagiate, che vivono le difficoltà più grosse, che spesso anche vengono stereotipati nella nostra società da tutte le fonti, i media e via discorrendo. Vengono fatti tanti discorsi, però fondamentalmente mai o quasi mai si parla delle persone, o da una parte o dall'altra vengono strumentalizzati. Quindi questo fenomeno che è la migrazione è un fenomeno globale e spesso viene anche estromesso dai racconti della storia, quella che viene insegnata, quella che viene scritta. E proprio di questo si occupa il gruppo di Cannibali e Re, che fra un po' sentiremo in un'intervista, perché loro si sono dati questo di obiettivo: raccontare la storia che nessuno racconta. Te lo segui la pagina Cannibali e Re? No, la sto scoprendo adesso. La stai scoprendo adesso? Allora, beh, perfetto, ti sentirei una fantastica intervista di questo gruppo che si può dire che sta praticamente spopolando. Wow. Io ve la sparo. Wombat. Bianchi, neri, rossi e gialli, l'importante è il portafogli, con i soldi che vanno così. Neri, rossi, gialli e bianchi, sono tutti affascinanti, con i soldi che vanno così. Non c'è razza e religione che si metta in discussione, ha ragione sempre chi ha i contanti. Bianchi, neri, rossi e gialli, nella guerra son coinvolti, se non hanno pieno il portafogli. Neri, rossi, gialli e bianchi, al sicuro tutti quanti, con i soldi che vanno così. Tu ricaccio maledetto, tu che navighi nel lusso, baci che giace sotto un cipresso. Armiamoci e partite, ce lo diceva il duce. Armiamoci e partite, non lo dimenticate mai. Bianchi, neri, rossi e gialli, l'importante è il portafogli, con i soldi che vanno così. Neri, rossi, gialli e bianchi, sono tutti più eccitanti, con i soldi che vanno così. Non c'è razza e religione che si metta in discussione, ha ragione sempre chi ha i contanti. Armiamoci e partite, ce lo diceva il duce. Armiamoci e partite, non lo dimenticate mai. Polveri, Radio Wombat, parliamo con Davide di Cannibali e Re, Cronache Ribelli. Ciao Davide. Ciao, grazie. Ciao. Grazie a tutti per l'invito, è un piacere essere qua con voi. Evviva, chiamiamo Cannibali e Re perché? Perché per tutto il 2018 praticamente noi abbiamo, o per una buona parte di esso, abbiamo letto ogni lunedì una storia di Cronache Ribelli, che è l'almanacco che ogni lunedì abbiamo parlato. Quindi partiamo proprio dal progetto di Cannibali e Re. Che cos'è il nome? Se ci racconti un po' che cos'è. Certamente. Va bene, allora Cannibali e Re nasce ormai, possiamo dire, quasi 3 anni fa, nella primavera del 2016, è nato dall'incontro di un gruppo di studenti che hanno studiato storia, anche al sottretto, chi magari storico-politiche, ed era nato appunto con l'intenzione di fare storia in maniera diversa. Cioè noi avevamo studiato, appunto, in ambito accademico la storia, avevamo visto come come esso era strutturato, come l'insegnamento, di cosa si parlava quando si faceva storia. E abbiamo notato che comunque nella storia c'è una grande assenza, che quella è la nostra assenza, cioè l'assenza fondamentalmente del racconto degli ultimi, degli oppressi, degli stati. Il racconto della storia è principalmente un racconto dall'alto, è un racconto di grandi gesti, di imperatori, di sovrani, di re, ma anche invece diciamo si è caricato, si è sobbarcato sulla propria schiena quello che è, diciamo, proprio il discorso del progresso, la fatica, il sudore, il sangue. E queste sono, diciamo, le storie che abbiamo iniziato a raccontare. Poi la pagina si è, diciamo, è cresciuta nel corso. È nata come una pagina Facebook. È nata come una pagina Facebook, esattamente. Noi dopo il primo incontro abbiamo deciso: apriamo una pagina Facebook, perché per quel modo, nonostante Facebook abbia i suoi mille, diciamo, problemi, abbia le sue mille contraddizioni, è un mezzo comunque limitato, può essere anche censorio, però Facebook era un modo, il modo più semplice, perché appunto partiva dal basso, perché non avevamo dietro fondi o mezzi particolari, no? Partiva dal basso per raggiungere quante più persone possibili, ed è questo quello che abbiamo voluto fare. Poi il fatto di aprire su Facebook ci apriva anche a, come dire, ci dava anche la possibilità di avere una collaborazione più orizzontale con chi ci seguisse. Io leggo un libro, ovviamente il libro mi passa informazioni, non passo niente all'autore del libro, ma se non gli scrivo una mail alla quale non risponderà mai. Facebook ovviamente è che uno ha anche dei suoi grandi limiti, ma c'è il vantaggio di poter interagire direttamente con chi ti segue, con chi, diciamo, utilizza un prodotto che tu hai, che hai creato, un prodotto, diciamo, è una brutta parola, ma un contenuto. Ecco. Questo appunto, dal punto di vista di una critica, per me non è una critica, perché pensiamo di costruire, se pensiamo che se gestita, se sviluppa un rapporto appunto orizzontale con chi segue, no? Diciamo, per utilizzare un termine più facebookiano, della pagina, secondo me si poteva costruire uno spazio diverso, ed è quello che abbiamo fatto. Secondo me lo spazio su Facebook, nonostante ci siano sempre stati grandi scontri, ovviamente grandi questioni ideologiche, non solo, sì, infatti, però ecco, è costruito, noi spesso abbiamo questo riscontro da parte degli utenti, che ci dicono è diverso il modo in cui si dialoga su Cannibali e Re, perché comunque c'è non c'è l'insulto personale, sentiamo ovviamente il blocchiamo l'insulto personale e via dicendo, ma anche noi se rispondiamo a qualcuno che non è d'accordo con noi, con termini forti, prescindendo appunto dall'insulto, comunque ci poniamo, perché non siamo in cattedra, noi non è, abbiamo una verità rivelata, noi facciamo una storia che sicuramente è parziale, la nostra storia, una storia che non è neutrale, anche perché la storia noi diciamo che non può essere neutrale, e quindi questo secondo me è stato apprezzato. Da lì poi, insomma, ecco, come hai detto tu, la pagina cresce, l'anno scorso abbiamo pubblicato il Corona dei Ritenti, che è un po' l'evoluzione anche cartacea di quello che, ecco, abbiamo dovuto provare a fare su Facebook. Ok, io rimarrei un attimo su, appunto, sulla scelta poi che fate delle storie, nel senso che voi su Facebook pubblicate, non so con quale cadenza, delle storie, che selezionate e ne selezionate le fonti, ne scrivete e ne discutete appunto con la comunità poi che si è creata intorno alla pagina che appunto discute pubblicamente. E volevo sapere un po' come funzionava la selezione delle storie e la selezione delle fonti e anche ribadire che effettivamente la necessità che poi è impellente ed è impellente un po' in tutta Italia, in diversi gruppi abbiamo notato anche in questi anni, che è quella degli storici o comunque di chi fa storiografia in un modo o nell'altro, di uscire dall'accademia, nel senso che nonostante magari all'interno dell'università si possa fare ricerca, poi quella ricerca anche di storia dal basso legata anche alla storia subalterna e tutto questo, sia molto molto difficile da portare nella didattica della storia o comunque nel racconto della storia. Assolutamente, questo diciamo si ricollega a quanto detto prima, nel senso il nostro obiettivo principale era questo, era fare divulgazione, non facciamo ricerca storica, anche se appunto magari in ambito accademico in passato l'abbiamo fatta, avremmo anche mezzi per farlo, ma non è quello che vogliamo fare. Sì, sì. Noi vogliamo fare divulgazione, vogliamo prendere queste storie che viene dal mondo e farla conoscere. Ok, rompere quel muro che separa comunque l'accademia, secondo me, dalla grande massa delle persone, che appunto poi anche in base al proprio percorso scolastico ritiene magari la storia una materia, comunque quella materia che tutti odiano, ma che non ha mai fatto bocciare quasi nessuno. Quindi tutti la odiano, buffo, ma non riescono neanche a capirne l'utilità. Appunto ricollego al discorso di prima, conoscere la nostra storia fa capire qual è, come dire, il compito che ha questa disciplina. E far capire, essere comunque uno strumento di avanzamento anche sociale dal basso, che secondo me è una funzione imprescindibile che deve avere, ma che è spesso messa, come dire, in secondo luogo, perché poi vediamo, come dici tu, nell'Accademia ci si chiude e troviamo trattati sui fucili a retrocarica del 600 e sul, che ne so, cosa mangiava Napoleone III o sui miti di, che ne so io, di Eisenhower, e poi appunto non si racconta la nostra storia, perché comunque noi su 100 persone probabilmente 99-98 di noi non entreranno in libri di storia, saranno in pochi, quindi non rivedendoci da questa storia appunto noi ci sentiamo esclusi, cioè sappiamo anche capire qual è il ruolo, no? Qual è il ruolo che dobbiamo avere nella società, nella costruzione della società di oggi e soprattutto di domani, e ci accettiamo, diciamo, in maniera un po' passiva a quel che viene calato dall'alto, ci cioè, proporci noi, no? Come motore, come azione. Andando su un discorso, diciamo, un po' più pratico, dicevi sulla selezione delle storie, ma in realtà non c'è una regola, anche qui noi non siamo avanti delle regole precise. Quel che proviamo a fare, abbiamo il nostro calendario, abbiamo delle ricorrenze, diciamo, che sappiamo quanto fare, alcune volte, ma senza farlo per forza, alcune volte pubblichiamo storie completamente slegate dal giorno in cui vengono pubblicate. E però male si procede nella scelta, se ne discute sempre insieme, si affronta l'argomento, si cercano fonti affidabili. Questa è una domanda, diciamo, molto importante, perché noi ovviamente non è che leggiamo una storia e la pubblichiamo, abbiamo una bella biblioteca, diciamo, certo, sia personali, poi negli studenti stiamo arricchendo magari con qualche altra cosa che sono specificamente appunto per la pagina, e approfondiamo le fonti, se qualcosa che non c'è magari su un libro, insomma, solo una pubblicazione affidabile, troviamo su internet, la verifica diventa 10 volte più accurata, perché ovviamente non è nostra intenzione, diciamo, pubblicare storie soltanto perché sono sensazionalistiche, anzi la storia deve essere reale, ma non tanto perché noi vogliamo dire guardate, noi raccontiamo solo queste storie certificate, ma appunto perché devono essere storie che veramente hanno un impatto, che siano reali, no? Che siano, certo, tangibili, che siano verificabili. Tanto noi pubblichiamo le fonti, la stessa cosa abbiamo fatto per esempio con l'almanacco, più o meno noi le facciamo sulla pagina, cioè, noi abbiamo una bibliografia sull'almanacco, non so se è presente, certo, ma la bibliografia che c'è sull'almanacco non è una bibliografia, come dire, delle fonti, nel senso, sì, abbiamo utilizzato quel pezzo per scrivere, no, c'è una bibliografia di approfondimento, perché noi appunto non possiamo essere esaustivi su un post su Facebook, che comunque limitiamo sempre un certo numero di caratteri, sì, per questioni tecniche, e quindi noi vogliamo, noi siamo contenti quando la persona ci dice guardate, io ho letto questa storia, poi ho comprato il libro e mi è piaciuto tantissimo, non mi è piaciuto, poi non ho capito questo, non ho capito quello, perché capito, abbiamo stimolato l'interesse verso un certo personaggio che noi riteniamo abbia una storia, comunque che riteniamo abbia un interesse per la maggior parte delle persone, appunto, anche a livello, diciamo, sociale. Non ricordo se mi hai chiesto un'altra domanda. Non me lo ricordo nemmeno io, quindi tranquillo, ci va avanti. Ma no, ce l'ho qui sotto la bibliografia, che effettivamente è molto utile anche la divisione che avete fatto, che è molto semplice da ritrovare, ma ora parliamo magari dell'almanacco e si parla anche di questo. Però è fondamentale, secondo me è molto interessante che non sia una bibliografia che sia appunto la bibliografia classica che si trova su un libro di storia. Anche perché trovi anche per esempio documentari, sì, ma c'è un videogioco, c'è una bibliografia, non so se l'ha fatto, è molto particolare. Però è molto interessante appunto perché è molto semplice così, poi se un argomento ha interessato andare a ritrovare un testo o comunque poi da lì, da quel testo lì, poi se ne troverà altre decine probabilmente, esatto, quindi sì. È molto anche divertente. Si parla di questo almanacco, sì, si chiama Cronache Ribelli e noi ne abbiamo parlato in trasmissione perché appunto l'abbiamo utilizzato malamente per ogni lunedì per raccontare una storia a inizio della nostra trasmissione. E quindi anche chi ascolta la nostra trasmissione sa che cos'è, però magari se ce lo racconti te è meglio, direi. Ma intanto lasciami dire che ci fa molto piacere che sia stato, sì, diciamo, diffuso, no? Anche per un mezzo diverso, perché noi, ecco, quello che proviamo a fare, magari noi ci diciamo sempre per motivi di tempo e di forze, però diffondere su mezzi diversi noi è il primo successo, no, di chi prova a fare divulgazione, quindi noi con piacere immenso che voi abbiate letto una storia all'inizio delle trasmissioni, il piacere è veramente grandissimo. Allora, come nasce Cronache Ribelli? Appunto, Cronache Ribelli nasce poco più di un anno fa ormai, eravamo alla fine del dicembre 2017, Avremmo avuto diversi, diciamo, diversi riscontri, diverse persone ci hanno detto: ma provate a far uscire qualcosa, uscite dal social, scrivete un libro. Ora, al di là di alcune difficoltà, diciamo, pratiche che abbiamo avuto perché lavoravamo e tutto, ci siamo detti effettivamente è un qualcosa che da fare, che dobbiamo fare, appunto per questo motivo, perché più vuoi fare divulgazione, il tuo pubblico devi provare ad ampliarlo sempre di più, a raggiungere sempre più persone. Ovviamente per noi che facevamo storia sul social, era naturale uscire con una pubblicazione. L'almanacco appunto si è concretizzato come idea alla fine del 2017, ci abbiamo lavorato durante praticamente tutto l'inverno e l'abbiamo presentato per la prima volta qui a Perugia il 22 aprile dell'anno scorso. Cos'è l'almanacco? L'almanacco per noi è l'evoluzione naturale di quello che è il nostro lavoro che abbiamo fatto negli anni su Facebook. Cioè abbiamo condensato 250 storie, di queste 100 le abbiamo scritte appositamente per l'almanacco, poi per rendere comunque fruibili a tutti, nel corso dei mesi le abbiamo pubblicate piano piano sulla pagina. Altre 150 erano prese dalla pagina, niente di adattate per motivi, diciamo, tecnici. È un almanacco, quindi cosa vuol dire? Che ogni giorno, ogni gruppo di giorni è legato a un evento particolare. È una forma che secondo me appunto ci permetteva di prendere il lavoro fatto sulla pagina. È una forma che, diciamo, ha avuto una storia, una forma letteraria che ha avuto una storia particolare, perché all'inizio era come dire l'opuscolo dei potenti che dicevano: giorno X ho vinto questa battaglia, giorno X ho raccolto tonnellate e tonnellate di grano, eccetera eccetera. Per poi, verso la fine dell'Ottocento, diventare invece uno strumento delle classi più popolari, no, che lo utilizzavano nello stesso modo, ovviamente per fini, da un punto di vista, diciamo, completamente diverso. E quindi ci piaceva l'idea di riprendere questa forma, e ci piaceva l'idea soprattutto di riuscire a fare un passo in avanti anche rispetto al lavoro su Facebook. Ovviamente su un libro hai tutto un altro tipo di impostazione grafica che ti permette di variare. Proprio questo è quello che sottolineiamo sempre. Noi pensiamo che con Cronache Ribelli abbiamo provato, diciamo, a rompere diversi schemi dal punto di vista dell'editoria, diciamo, della divulgazione storica. Innanzitutto dal punto di vista grafico, diciamo, perché comunque l'almanacco, anche se non ti interessa la storia, anche se non sai di che cavolo parla, se lo apri lo sfogli, secondo noi ha la capacità di incuriosire, sì, per la veste grafica, per l'impostazione, per le storie, no? Abbiamo provato a raggiungere questo anche per le illustrazioni che ci sono all'inizio, certo, di ogni mese, no? Le 12 illustrazioni realizzate da Laura, la nostra illustratrice, e quelli erano tutti i modi, diciamo, per rendere questo libro diverso dai classici mattoni gialli, tra i polverati, certo, quelle con le foto più plasticate, con le pagine con le foto al centro. È qualcosa di diverso che ci abbiamo provato. Numero uno. Numero due, poi i contenuti, riprendendo quanto detto sulla pagina, quindi storia dal basso, storie di ribellioni, perché su Cronache Ribelli non ci sono molte tipologie di storie, diciamo, che abbiamo raccontato sulla pagina, non ci sono, perché sull'almanacco ci siamo concentrati sulla ribellione. Ribellione cosa vuol dire? Vuol dire appunto non accettare una condizione proveniente appunto di solito dall'alto, ma di qualsiasi tipo, che sia la ribellione contro i fascismi, contro comunque un'oppressione politica, contro un'oppressione economica, no? Contro la povertà, contro chi opprime dal punto di vista lavorativo, chi sfrutta dal punto di vista sessuale o di genere, dal punto di vista della specie. Tutte queste ribellioni, alcune possono sembrare troppo grosse anche per un audace ribelle, altre possono sembrare, diciamo, blande come ribellioni. Secondo me era importante metterle insieme, proprio perché quello che, diciamo, è uno dei punti centrali per noi è l'intersezionalità delle lotte. Non si può dare priorità a un'istanza, a due istanze, tralasciare le altre. Se non tutti siamo liberi, nessuno è libero, diceva qualcuno. E quindi per me questo è un punto fondamentale che spiega il modo in cui è stato costruito, perché quelle storie specifiche siano nell'almanacco. Terzo punto, per noi essenziale, è, diciamo, dal punto di vista editoriale e della distribuzione. Cronache Ribelli è completamente autoprodotto. Non ci siamo affidati a nessuno, eravamo stati contattati per vari motivi, ma soprattutto per un motivo, diciamo, ideale, abbiamo detto no, abbiamo voluto autoprodurlo. Cosa vuol dire? Che abbiamo contattato noi una grafica, l'illustratrice, amici che ci hanno aiutato con la correzione bozze, e il lavoro con loro è stato completamente orizzontale. Noi non siamo andati da Marcella, la grafica, a dire: guarda, devi fare questo, devi fare così, così, così, così. Marcella, che ha delle competenze diverse dalle nostre, ci ha aiutato, ci ha detto perché questa non la tagliamo e mettiamo un'immagine più grande, perché questo non lo spostiamo di qua, perché questo non lo allunghi, che... insomma, lei ha messo le sue competenze, no, al pari con le nostre, abbiamo lavorato insieme. È un modo di fare, secondo me, che non è tanto frequente, diciamo, soprattutto in ambiti, diciamo, molto profit, come può essere l'editoria, perché oggi l'editoria anche di divulgazione storica fondamentalmente ha un obiettivo, che è fare soldi, cioè, come nel 95%, diciamo, delle attività, purtroppo. E quindi, ecco, abbiamo adottato questo approccio con tutti, persino con i correttori bot, e il punto lo mettiamo dentro fuori le virgolette, cioè abbiamo fatto discussioni veramente perché loro non ci pensano, ma effettivamente poi abbiamo provato, per essere coerenti a questo nostro modo di vedere il mondo, a coinvolgere in ogni decisione. E infine un altro punto, secondo me, essenziale, appunto quello della distribuzione, cioè Cronaca Ribelli non circola nei circuiti editoriali classici, banalmente non si trova nelle librerie. Mm-hmm. Vabbè, non è la maggior parte, in qualcuna sì, e non si trova soprattutto sui grandi shop online. Certo. Perché noi non possiamo fare un certo tipo di narrazione sul mondo del lavoro, poi venderlo su Amazon. Certo. Che sappiamo, insomma, quali problematiche che vi siano, mi tengo molto vago dicendo quali problematiche vi siano in un centro di distribuzione di Amazon. O per quanto riguarda la distribuzione, no, dei corrieri, noi quando siamo stati in Emilia Romagna a settembre sulla via Emilia dovevamo spostarci per una serie di cose, diciamo, di notte, e facendo una tratta breve incontravamo almeno una cinquantina di corrieri. Ma certo. Costretti a lavorare di notte magari per spostare un libro, che il libro non ti salva la vita, ma è una flebo, no, capito? Quindi noi abbiamo anche dal punto di vista della distribuzione, al di là poi degli eventi e tutto, ma la distribuzione che facciamo tramite il portale che sempre utilizziamo appunto per chi volesse ottenere l'almanacco, è tutto noi, è tutto la distribuzione, la facciamo noi, andiamo alla posta e spediamo. Certo. Adesso vabbè, abbiamo incontrato facendo distribuzione un po' più facile, però i primi tempi, i primi mesi abbiamo spedito andando alla posta, ci siamo incaricati noi con le spedizioni non espresse, che appunto diciamo un libro. Non possiamo arrivare a pensare che oggi per forza per arrivare tutto subito, e noi abbiamo contattato i corrieri, detto, vediamo se c'è un'offerta per fare qualcosa, non è una persona che abbia, cioè, non esiste, cioè tu devi per forza mandare un pay, esattamente, con i tempi che decidono, certo. E quindi ci siamo affidati, insomma, un po' alle poste, alle care vecchie poste, con un prodotto vecchissimo, vecchio di libri, sì. Però vabbè, che comunque che fa appunto falso sporco lavoro, e appunto magari appunto riesce a cioè vi permette di stare un po' lontani da quello che è appunto il mondo anche solo della logistica, che forse è uno dei campi dove lo sfruttamento oggi in Italia si vede maggiormente. Vabbè, il campo dove tra quello, diciamo, il mondo anche controverso dei rider, dei call center, forse i tre, il triangolo, diciamo, dello sfruttamento in Italia, non so. Esatto. Hai detto tutto quello che ti volevo chiedere, quindi molto bene. Perfetto. E a questo punto, appunto, come si va avanti da un libro del genere? Cosa è uscito? O l'avete presentato in diverse città, sì, e anche a Firenze? E, chiedervi cosa avete fatto dopo, e cosa stai facendo ora, e cosa farete nei prossimi. Allora, diciamo, dall'uscita appunto lo scorso aprile del libro, abbiamo presentato poi fino a fine anno, insomma, tra novembre e dicembre abbiamo fatto solo un evento in Calabria, abbiamo fatto 68 presentazioni, sì, secondo me, che ritagli. Abbiamo poi creato l'associazione a settembre, il 12 settembre è stata creata appunto l'associazione Cronaca Ribelli, che si occuperà di portare avanti questo lavoro e soprattutto ci dà l'opportunità di dialogare, avendo appunto un'associazione, diciamo, strutturata, di dialogare con per esempio con le scuole, che è un discorso che ci preme fortemente, tant'è che appunto a novembre abbiamo dato via al tesseramento, abbiamo dato via con un tesseramento, diciamo, che però semplice per supportare un'agenda e un calendario. Mm-hmm. E abbiamo dato via questo tesseramento che ci ha fondamentalmente lasciato cioè è stato partecipato in maniera veramente immensa, noi siamo contentissimi di questo. I fondi che abbiamo raccolto con la campagna di tesseramento ci serviranno per coprirci i costi per fare divulgazione nelle scuole. Non vogliamo, per una questione nostra di principio, non accettiamo di ricevere soldi dalle istituzioni, né tantomeno andiamo a chiedere alle scuole ovviamente in questo particolare periodo storico, non copriamo noi le spese. Adesso siamo in contatto con diversi istituti, ricominceremo a girare, adesso ci torno il prossimo mese. Abbiamo già fatto tre eventi in realtà abbastanza classici, diciamo, con le scuole, due a Lucca, uno in Toscana e uno a Cremona, però adesso stiamo strutturando, diciamo, nuove forme anche per dialogare con i ragazzi. Stiamo approfondendo il tema del role playing, che può essere uno strumento secondo me educativo fondamentale, no? per capire alcune dinamiche. Per esempio l'8 febbraio faremo solo questa data a Roma, non San Marino, faremo role playing sulla schiavitù con i ragazzi. Ragazzi, una scuola media, questo sarà il nostro primo evento, diciamo, di role playing, annesso di uno o due giorni prima qui alla Straniera a Perugia. Faremo un evento di role playing e tenteremo di utilizzare questo strumento per far capire, no, alcune dinamiche storiche. Per la schiavitù può essere come, perché gli schiavi dell'amistà, no, è una delle storie che abbiamo raccontato anche noi, anche abbastanza famosa grazie al film, perché furono portati là, come potevano difendersi, no, dall'accusa di dover, dalla decisione, diciamo, di andare in Africa o essere riportati negli Stati Uniti. Quindi sono tutti una serie di schemi che secondo me aiuteranno i ragazzi, diciamo, a capire certe meccaniche storiche. E questo discorso, ecco, lo inizieremo a febbraio con un piccolo evento alla Stranieri e poi qui a Perugia e poi l'8 a Roma, e da marzo in poi tenteremo di affiancare le presentazioni come abbiamo fatto per Cronache Ribelle con gli eventi nelle scuole. Aggiungiamo che a inizio marzo uscirà un nuovo prodotto editoriale nostro, completamente nuovo, e sarà qualcosa di radicalmente diverso da Cronache Ribelle. Quindi abbiamo voluto pubblicare, adesso seguiranno novità perché ci stiamo ancora lavorando. Sì, aspettiamo, poi lo annunceremo appena sarà, magari poi ci risentiamo anche quando ce lo potete dire. Adesso, diciamo, snoccioleremo qualche dettaglio nelle prossime settimane, ci stiamo lavorando, siamo ancora in una fase molto, diciamo, tecnica, di preparazione, di pulitura del testo, però ecco, seguiranno novità. Quindi da marzo in poi adesso avremo un altro giro proprio in Toscana. Inizieremo proprio dalla Toscana, saremo a Livorno sicuramente, poi stiamo provando per Pistoia, Reggio, abbiamo contatti a Siena, a Follonica, insomma, diciamo, gireremo un po' la Toscana e poi saremo in avanti. Quindi ricominciamo con una serie di presentazioni, uscirà il nuovo libro, siamo in lavoro con le scuole, stiamo anche collaborando con varie associazioni per la pubblicazione di testi, diciamo, di varie tematiche, che ancora sono anche loro in fase di piena elaborazione. E quindi ecco, il lavoro procede, ovviamente la pagina continuerà a tenere questi ritmi, anzi stiamo anche alternando le storie su Cannibali e Re con dei post un po' più, diciamo, editoriali su Cronache Ribelli, sull'altra pagina, nella quale già abbiamo affrontato varie tematiche, quali per esempio il colonialismo, soprattutto il colonialismo italiano, sul quale si è detto veramente tutti i giorni, cioè, oddio, non si è detto di tutto e di più in questi giorni, no? Parlando più di altro di altri colonialisti presenti, stiamo provando ad affrontare anche tematiche, diciamo, più vicine, ricollegandole al discorso storico. Quindi ecco, il lavoro procede e adesso vedremo questo 2019 come andrà. Dai. Quindi a questo punto, ultima cosa, i contatti, cioè se vi voglio mandare una storia, se voglio comprare Cronache Ribelli, se voglio sentire se venite a fare una presentazione dove vi scriviamo. Certo, allora, per noi va benissimo un messaggio sulle due pagine, siamo noi che rispondiamo, quindi un messaggio su Cannibali e Re o su Cronache Ribelli. Anche le storie, questa è una cosa molto importante, noi molte storie sono state suggerite dagli utenti, che è un modo anche di far partecipare, no? Chi ci segue, che non è soltanto lì a leggere la storia, ma ne prende anche parte. Pensa, una delle storie dell'almanacco, delle storie principali, quelle dell'inizio mese, no? 4, nel mese di maggio, ci venne comunicato da un utente, ci venne raccontata la sua storia da qualcuno che ci seguiva, e quindi poi è diventata addirittura un'illustrazione, una delle storie di copertina in mangio. Quindi noi siamo lì, chiunque volesse suggerirci un argomento, un qualcosa che sia magari legato alla sua realtà locale, noi siamo interessantissimi alla storia locale, perché appunto sono le storie che ci rendono partecipi veramente, che è la nostra, quella che viviamo tutti i giorni, e magari non sappiamo interpretare, non conosciamo. Storie locali, esperimenti, critiche, o anche informazioni per acquistare il libro, che è presente su questo shop online, sempre al 100% da noi, su Plumbing. Okay. Quindi si può trovare lì, oppure qualcuno, se vuole avere qualche indicazione, informazione, ci scrive, inviamo il link, siamo sempre a disposizione. Perfetto. perfetto. Altrimenti c'è anche un indirizzo email che è cronacalbelli@gmail.com. Però diciamo, sul concetto diretto è più facile, più sì, diciamo. Allora, io mi sembra che ci sia detto un sacco di cose e le e siamo prontissimi a raccontarne altre se nei prossimi appunto settimane, mesi ci saranno novità, ci saranno altre cose, magari vi richiamiamo. Volentieri, volentieri, andiamo anche di persona, tanto sì, siamo vicini, quindi sì, infatti alla fine siamo alla fine giornata. Allora ti ringrazio molto e niente, ci sentiamo presto. Grazie a voi ragazzi, buon lavoro. Aloni sì, aloni no, e fate sta pizza. E invece no. Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, resta con me, signore, la sera. Elio, resta con me e avremo la pace. Fammi impazzire, fammi penare, la notte mai più scenderà. Ti porteremo i nostri fratelli, li porteremo lungo le strade. Vita mia, non m'importa non passate, non m'importa chi t'ha avuta per le vie del mondo, signor. Non m'importa non passate, non m'importa chi t'ha avuta, resta con me, con me. Lasciare la tua casa, ah, cosa speri di trovare? La strada è sempre quella, ma la gente è differente, ce n'è mica, ah, dove credi di arrivare? Born, ponte di Abramo, ponte di Abramo. Andate e predicate il mio Vangelo, parola di Yahweh. Abbandonate, le han lasciate i pescatori, son partiti con Gesù. La folla che osannava se n'è andata, ma in silenzio è una domanda a sembra i dodici portare. Born, born, ponte di Abramo, born, ponte di Abramo. Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà? È il mio popolo, la terra e la promessa, parola di Yahweh. Esce dalla tua terra e vai dove ti mostrerà, parola di Yahweh. Esce dalla tua terra, vai dove ti mostrerà, parola di Yahweh, parola di Yahweh, parola di Yahweh. La parola di Yahweh, la parola di Yahweh, la parola di Yahweh. Allora, eccoci tornati, avete già sentito la sigla, sapete di cosa si tratta e l'intervista a Cannibal Ray speriamo vi sia piaciuta e l'almanacco vi hanno detto dove lo trovate, ve lo consigliamo perché è veramente una cosa veramente veramente veramente figa. Noi siamo qua in regia, intanto è arrivato un nuovo compagno a supportarci nell'utilizzo di questi stranissimi macchinari che noi non dominiamo nella ancora, tana del Wombat. Nella tana del Wombat. E bene, sì, forse voi non sapete cos'è questa sigla, Ma no, siamo impreparati. Questo. Ma dobbiamo dare un nome. Provate a immaginare di che cosa si tratta dalla musica e che cosa vi porta a pensare. Concerto del primo maggio. Dai, di solito c'è sempre un po' di musica balcanica, effettivamente. Il concerto del primo maggio. La musica balcanica ci ha rotto i coglioni, come dicevi. La musica balcanica ci ha rotto i coglioni. Sentite la voce nuova, eccola, ti ho acceso il microfono. Sentiamo la voce. Forse ti ho acceso il microfono, ma forse dovresti avere anche qualcosina qua, no? Ma chissà. Scalpita vuole parlare in radio. Vuole parlare in radio, ma è troppo presto, evidentemente. È ancora maturo. Non sei ancora maturo, abbiamo deciso. Allora, questo è l'Urlo dei Balcani. L'Urlo dei Balcani è una rubrica su Focal Polveri storica, parla dei Balcani. È fatta dal nostro buon compagno Tuco, che non è qua, ce l'ha registrata e mandata in differita. Io ve la sparo. Wow, grande Tuco. E buon pomeriggio a tutti, cari wombati e cari wombattesse. Eccoci qua nuovamente all'Urlo dei Balcani. Oggi un po' di aggiornamenti dai nostri vicini, sarò breve, ma breve per annunciare anche poi in realtà un grande approfondimento che presto ci sarà sulle nostre frequenze, 1539 delle AM. Partiamo subito da una storia che avevamo seguito tempo fa, se ben ricordate, la vicenda della Grecia. Tra la vicenda tra Grecia e Macedonia e tutto il contenzioso per poter avere utilizzare il nome Macedonia, che i greci ritengono una proprietà culturale e nazionale prettamente greca, mentre la Repubblica ex Jugoslava, appunto della Macedonia, riteneva di poter tenere. La Grecia teneva in scacco la Macedonia per quanto riguarda l'entrata nell'ingresso dell'Unione Europea. Ci sono stati quindi delle trattative, perché fin tanto che la Macedonia non cambiava in qualche modo il suo nome, la Grecia non avrebbe permesso l'entrata nell'Europa, avrebbe sempre messo il veto riguardo all'entrata in Europa della Macedonia. E quindi, se ben ricordate, c'era stato il referendum, un referendum fallito che non aveva non aveva raggiunto il quorum. Quindi il governo di Skopje aveva quindi tutto sommato il via libero per continuare con questo iter. E questo iter è giunto al suo termine. Infatti il Parlamento di Atene ha ratificato gli accordi di Prespa, si chiamano, mettendo fine alla ventennale disputa del nome con lo Skopje, e quindi, come già c'era scritto all'interno del referendum macedone, ora la Macedonia diverrà Macedonia del Nord, e quindi potrà proseguire il suo percorso di integrazione euroatlantico voluto dal primo ministro. Ci è voluto un giorno in più del previsto, perché la votazione doveva essere domenica, e invece è avvenuta praticamente oggi. Ci è voluto un giorno in più, appunto, nonostante le proteste e gli scontenti, ci sono state grandissime, ci sono state delle grosse proteste in Grecia, anzi questa ha spaccato proprio in due la politica greca, questo accordo, nonostante appunto le proteste dell'opposizione sono scese in piazza domenica scorsa ad Atene, ci sono stati vari scossoni dopo la manifestazione domenica, che, dove c'erano 60.000 persone nel centro di Atene, gli organizzatori parlavano di milioni, se non sbaglio avevo letto su qualche articolo o almeno un milione. 60.000 sono le cifre invece date dalla questura greca, sono sfociate anche in alcuni scontri con di alcune frange violente, diciamo, con la polizia, e poi lunedì si è ripreso l'iter parlamentare, e chiaramente si parla di settimana scorsa, domenica scorsa e lunedì scorso, fino al voto finale. L'approvazione ha provocato appunto un vero terremoto, diceva, in Grecia, perché molti partiti, non si sapeva cosa avrebbero votato in Parlamento, molti partiti greci, per esempio i Greci Indipendenti, che è una piccola formazione di destra e che è partner di minoranza di Tsipras, il leader è Panos Kamenos, che è già ministro della difesa e che ha abbandonato l'esecutivo proprio in opposizione a questa intesa. Le previsioni davano che ci sarebbe stato uno scarto veramente piccolo per la maggioranza, una maggioranza risicata, cioè probabilmente 152 voti sui 300 del Parlamento greco, sono stati 153, quindi queste previsioni erano giuste. E quindi niente, siamo giunti alla fine, nonostante le proteste, i due paesi sono, dopo anni di scontri, mediazioni fallite, le scintille nazionaliste, le resistenze dall'una e dall'altra parte, quindi sia per il referendum in Macedonia, visto come un ricatto sia da parte dei greci, soprattutto Alba Dorata cavalca questa cosa da anni. Insomma, Tsipras, l'omologo macedone e Zaev hanno salutato il sì greco come ultimo passo di un lungo percorso di ratificazione. È stata definita appunto una vittoria storica per i nostri due popoli. Un epilogo atteso, ma tutt'altro che scontato, accolto con grande soddisfazione anche da Bruxelles e Washington, chiaramente, perché auspicavano la fine, insomma, di queste scintille fra i due paesi. E quindi, dopo questa ratifica e questo accordo tra Grecia e Macedonia di venerdì scorso, vi faccio invece una grande anticipazione di una questione che seguiremo molto da vicino. Stiamo cercando appunto collaboratori in loco e non solo per seguire le vicende invece albanesi. È ormai da fine dicembre, diciamo da metà dicembre, che l'Albania è scossa delle manifestazioni studentesche principalmente, ma non solo, che si stanno riversando sulle strade albanesi per protestare contro il governo di Edi Rama, in particolar modo appunto tutto è partito dalle vicende universitarie. Per farvi una piccola introduzione, lo slogan usato quando l'ingiustizia nelle manifestazioni è stato: quando l'ingiustizia si fa legge, resistere diventa un dovere. Sono gli studenti delle università pubbliche albanesi, appunto, che hanno iniziato a manifestare da fine novembre nel centro di Tirana. La scintilla che ha acceso queste manifestazioni è stata la decisione governativa di obbligare gli studenti al pagamento di un'ulteriore tassa di circa 5 euro per ogni credito ottenuto in esami che si recuperano da anni precedenti. In media ogni esame garantisce dai 5 ai 9 crediti e questo significa una sovrattassa per esame dai 30 ai 45 euro. In un paese che ha già un'istruzione piuttosto traballante, istruzione pubblica, e che ha un alto costo. Il boicottaggio delle elezioni è iniziato appunto da martedì 4 dicembre 2018 al Dipartimento di Pianificazione Urbana, quindi gli urbanisti, forza urbanisti dell'Università di Tirana, e si è propagata con una sorta di reazione in catena in tutte le altre università pubbliche. Edi Rama come prima reazione ha bollato i manifestanti come ripetenti, cosa che ha aumentato invece la rabbia dei manifestanti e ha aumentato queste proteste. Continuano tutt'oggi, quindi aggiornamento proprio di oggi, che vede ancora le proteste in tutte le strade, della capitale tirana albanese. È stato quasi soprannominato un 68 albanese, però staremo a vedere. Però le proteste continuano, sono ferme e decise, e sono portate avanti appunto in primis dagli studenti. Quindi vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi, ma soprattutto probabilmente faremo uno speciale proprio sull'Albania per seguire direttamente anche con inviati le proteste proprio nei nostri vicini albanesi. Quindi le proteste continuano, sono tuttora in atto, e niente, per ulteriori aggiornamenti appunto su questo vi rimando alla puntata speciale o quel che sarà. Quindi tenete le vostre orecchie e gli occhi dritti, perché presto l'Unione dei Balcani urlerà in albanese. Con questo oggi per oggi chiudo, vi saluto e ci sentiamo settimana prossima o quando potremo. Viva Radio Womat, viva Fuoco alle Polveri, un ciao e soprattutto un yay a tutti. E vi lascio appunto con il consueto pezzo dai Balcani, questa volta appunto scegliamo la Macedonia, un gruppo che si chiama Bernays Propaganda, un gruppo che esce un po' fuori dal coro da tipologie di musicisti macedoni. Avete sentito in tutta la puntata sottofondo Goran Alaki, un fisarmonicista famosissimo e molto bravo macedone. Invece Bernays Propaganda, che fanno una sorta di new wave, post-punk, post-hardcore, incentrato su solidi ritmi contrassegnati da riff taglienti di chitarra elettrica, linee di basso tiratissime, dell'acida e intrigante voce della cantante. Ci sarebbe molto da raccontare di questo gruppo, che nasce nel 2007 proprio nella capitale macedone, a Skopje. Vi lascio, ho scelto per voi il pezzo Mojata Morijana, Morija, e niente, buon ascolto e a presto. così. 21 bolesti denovi. Žive samo tri dena mesečno. Ne mi treba boli ambiciji. Karijera ni dolenje lajkovi. Trebate mi go vozu potpisa. Anche le foche bevono Radio Wombat. Ma guarda che siamo musica tornati. Perfetta per introdurre sì. Il nostro nuovo arrivato, che ora ha un nome. Che ora ha un nome, fra l'altro, sì, scusate, avete sentito cose strane, ma era un pezzo. Ciao a tutti, non lo sentiamo, niente, infatti, niente. Vediamo se... Bricobaldo continua no, a boicottare... No, ragazzi, non ce la fa. Grande super ospite boicottato. Ma io, eppure c'è poco da fare, ragazzi, cioè, io l'ho messo. Bricobaldo armeggia con i microfoni, fa finta... Allora, forse Gringo me lo presenteremo la prossima volta. Gli hanno tagliato le corde vocali a Gringo, quindi... Boh, eppure qui va tutto bene, a me sembra. Non capisco proprio come mai Gringo non riesce a venire fuori dal suo microfono. Sarà che io sono imbranato nei mezzi tecnici. Comunque, caro Denever, io direi che abbiamo fatto il nostro tempo. Possiamo chiudere questa puntata di Focal Polveri specialissima. E ci starebbe da fare una rassegna eventi, caro Bricobaldo. Ci sarebbe da fare una rassegna eventi. Lo faremo subito appena staccato Focal Polveri. Rientriamo con la rassegna eventi. E fra l'altro, non perdetevi alle 21.30 Coccoli al Siliceo, perché le sue perle sono sempre pronte. E insomma, eccoci. Ascoltatrici e ascoltatori, è giunto il momento di lasciarci. Restate wombati, allora. Via. Ciao. Ciao wombat. A tutti, wombat. Radio Bomba. This is Radio Bomba. Perché oggi spesso e volentieri si misura il valore dell'uomo secondo atti miei da tasca? Noi partigiani il valore gli era di non averne nemmeno uno. Così sarà sicuri che il nostro istinto era quello di battersi per gli altri e per noi.